di passare alla restituzione dei vari gruppi di lavoro, secondo l'ordine del gruppo psicologia e sessualità, alimentazione, sport e donazione, con i due sottogruppi della donazione in quest'ordine qua, è doveroso ricordare la tragedia che in questi giorni, cioè che proprio ieri ha colpito il Cile con l'ennesimo terremoto, sembra. Siamo partiti, insomma, ricordando l'Abruzzo, un'ennesima tragedia che colpisce l'altra parte del mondo. Parlano di 9,5 di magnitudo della scala Richter, quindi a me mi è venuto a mente che se succedeva in Italia non so cosa rimaneva in piedi. E quindi noi sappiamo che in queste tragedie collettive l'Avis è solidarietà, e però ci siamo detti che è solidarietà non solo nei momenti di emergenza, ma è solidarietà tutti i giorni della nostra vita. Però mi sembrava giusto, insomma, ricordarlo. E passando... dall'emozione, diciamo, alle note un pochino più logistiche, chiedo a coloro che poi hanno seguito i gruppi, quindi coloro che restituiranno e che comunque faranno delle sintesi, di inviarle a Silvia Pollonio dell'esecutivo. La mail, vabbè, la sapete, comunque quella standard dell'Avis, s.apollonio@avis.it, perché lei raccoglierà tutti i contributi. Lascio un secondo la parola a Damiano, che è il nostro tecnologico, per un'ipotesi di lavoro in vista dell'Assemblea Nazionale, proprio due parole, e poi do la parola. Sì, vi è stato detto più o meno nei gruppi di raccogliere e inviare del materiale foto, video, audio, e volevo dire che l'intenzione dell'esecutivo era quella di organizzare una sorta di galleria multimediale da poi far vedere in Assemblea Nazionale, in uno stand. Ora poi vediamo come organizzarci meglio, quindi sicuramente faremo un comunicato dove daremo delle direttive più precise, perché effettivamente, facendo un po' i conti, se mandate tutto, foto, video, ci incasinate un po' la casella per email, anche perché il materiale è pesante dal punto di vista di byte, quindi vedremo un po' meglio come organizzarci, vi daremo i riferimenti a cui inviare eventualmente dei link o il materiale stesso. Quindi saranno materiali multimediali inerenti a attività promozionali, che siano spot, che siano eventi, che siano musiche, canzoni realizzate dai vari gruppi, dalle varie regioni. Faremo un po' una raccolta, una selezione, li proietteremo a rullo in sede di Assemblea Nazionale. Quindi attendete un attimino prima di inviare il tutto una circolare dove appunto spiegheremo la procedura. Okay. Le schede di iscrizione le avete già, penso, più o meno consegnate tutti, vi chiediamo di fare lo stesso con i questionari, ci sono le scatole là, anche per avere, insomma, un ritorno di questo forum. Io vi ringrazio veramente per la presenza, ringrazio Piacenza e l'Emilia Romagna, perché siamo stati veramente benissimo, e a questo punto diamo la parola ai gruppi con un quarto d'ora a gruppo. Anche 10 minuti, insomma, poi fate voi. Amore e psiche. Allora, buongiorno a tutti. Io sono Cesidi e lei è Mavi. Peccato. Allora, insomma, il nostro gruppo, come anche un po' visto dalle slide che ci ha presentato la dottoressa su psicologia e sesso, praticamente si è diviso in due sottogruppi che hanno affrontato delle tematiche diverse. Una ha trattato più il tema della sessualità e una più il tema della droga, che però sappiamo che viaggiano su delle linee parallele, e quindi c'è bisogno di fare informazione e prevenzione. Quello che abbiamo deciso noi di fare è che ci è sembrato riduttivo, diciamo, rappresentare tutto il lavoro di due giorni in un singolo foglio, ma vogliamo portarvi a conoscenza di tutto, molto velocemente, di tutto quello che abbiamo detto, sia nel sottogruppo rappresentato da Mavis, sia dal sottogruppo mio, che è quello della droga, di tutto un po' il percorso del ragionamento che è stato fatto. Quindi passo la parola a lei e andiamo avanti. Allora, diciamo che abbiamo cominciato col capire quali erano comunque i pareri comuni e quindi abbiamo iniziato a buttare giù le idee principali, iniziando soprattutto dal target, che questo messaggio era indirizzato soprattutto alle scuole medie inferiori e superiori. E la prima cosa è stata quella di indirizzare più i giovani a parlare nelle a mandare i giovani a parlare nelle scuole, perché sicuramente riescono a prendere meglio i ragazzi anche con il loro modo di parlare e di esprimersi. Mandare i giovani però accompagnati sicuramente da alcuni esperti per i cosiddetti approfondimenti tecnici, perché naturalmente servono sempre queste note tecniche. E poi ci siamo soffermati molto su lo spiegare ai ragazzi il senso del dono, del donare in quanto tale, e quindi dell'importanza di questo donare, l'importanza che l'Avis dà a questo gesto. In seguito poi ci siamo soffermati molto sull'affettività come senso civico e sociale, e quindi dopo andremo ad approfondire e vi spiegherò meglio. Ma soprattutto abbiamo notato come molto spesso nell'affrontare questi discorsi, soprattutto alle scuole, si è trovata, diciamo, una certa difficoltà per quanto riguarda i dettami religiosi, e quindi cerchiamo di parlare ai ragazzi senza andando a invadere quella che è la sfera religiosa. Per quanto riguarda poi, quindi questo è anche un rischio nella realtà comunicativa, perché non sappiamo fin quando possiamo essere capiti anche dagli stessi genitori. Appunto per questo abbiamo parlato di educazione ai genitori e non solo ai ragazzi, quindi cerchiamo di coinvolgerli, di fare capire che questo è un problema che riguarda loro, anche loro, cioè anche loro dovrebbero far capire ai propri ragazzi, diciamo, entrare in questo argomento. Una campagna naturalmente mirata per età e luogo, e quindi qui ci siamo divisi, cioè a seconda dei luoghi, a seconda delle persone che vanno a parlare, naturalmente varieranno le parole, sì, la sostanza sarà sempre quella, ma cambierà qualcosa. E poi un punto in comune molto importante, appunto, questi corsi genitori-figli, mettendoli a confronto, facendo scaturire quelle che sono le idee, diciamo, i concetti. Noi abbiamo, diciamo, usato questa frase, abbiamo le chiavi, perché noi, cominciando a parlare dell'Avis e quindi del donare, dell'importanza diciamo, che il fatto che un donatore deve essere sano, possiamo poi entrare nel concetto delle malattie sessualmente trasmissibili e quindi aprire questo concetto, questo discorso. Quindi diciamo che siamo armati per fare questo. Quindi essere capaci di far scaturire ai giovani curiosità per la risoluzione del problema, quindi cercare di attirare immediatamente la loro attenzione, non con discorsi noiosi, ma colpendoli subito, anche con delle testimonianze dirette, con magari delle persone che hanno assunto queste malattie. Far conoscere i bisogni spesso dati per scontati ed erroneamente ignorati è un altro punto che affronteremo dopo, e poi incentrarsi particolarmente sull'universo femminile. E quindi sul far capire, diciamo, far emergere che il problema non è solo da un senso, ma da entrambi, e quindi anche la femminilità, e quindi il discorso del valorizzare se stessi e quindi del prossimo, valorizzare la donna anche in questo senso. E poi il trasferimento di forti emozioni, naturalmente, è alla base di tutto, diciamo. Abbiamo preso questi 18 punti e li abbiamo sintetizzati, o li abbiamo collegati comunque fra loro, in 6 punti principali. Ah no, prima l'hanno fatto anche loro questo fatto. Allora, noi non ne abbiamo fatto 18, ma 4. E praticamente, diciamo, abbiamo per la rapidità. Allora, essenzialmente, visto che, come detto prima, i problemi viaggiano su due rette parallele, i metodi per affrontare questa cosa sono stati. Hanno molto, molti punti in comune, come quello di parlare ai genitori come genitori, cioè l'Avis deve essere una voce che si mette alla pari dei genitori, però spiegando loro come comunicare con i figli, perché il problema alla base è sempre questa differenza di linguaggio e di comunicazione con i figli. Però bisogna dire loro, che non bisogna essere né troppo impositivi, perché sappiamo che ogni volta che i genitori sono troppo impositivi, anche quando lo fanno con noi, poi noi spesso tendiamo a non andare controcorrente, a non rispettare, ma perché è così, sta nel nostro animo di essere giovani. E però neanche dall'altro lato, cioè neanche bisogna permettere di essere troppo permissivi, perché poi questo aumenta la possibilità di incorrere in comportamenti a rischio, sia dal punto di vista delle malattie sessualmente trasmissibili e sia dal punto di vista della droga. Un altro punto che volevamo portare all'attenzione è quello di dare dei gadget utili e costruttivi, come potrebbero essere i profilattici o la macchinetta per fare l'alcol test, che Emoservizi ha a disposizione. Però non ci fermiamo solo a dare il gadget, però forniamo nello stesso tempo dei fattori di formazione sia positivi, come può essere l'uso del profilattico, e sia negativi, nel senso che dobbiamo informare quali sono tutti i rischi e i pericoli che si possono incontrare non curando attenzione. E come ha detto anche lei, educare all'affettività, ci dobbiamo voler bene. Noi, se siamo in Avis, un po' ci vogliamo bene, perché abbiamo un certo stile di vita, e questo nostro voler bene a se stessi lo dobbiamo passare anche agli altri, perché chi si vuole bene con se stesso difficilmente mette a rischio la propria vita assumendo dei comportamenti sconsiderati. Poi bisogna essere diretti sul tema, non ci dobbiamo girare attorno, però non, neanche dobbiamo aggredire chi ci troviamo di fronte, perché se andassimo per esempio in una scuola e attaccare chi ha dei comportamenti scorretti, questi in un secondo creerebbero un muro fra noi e loro e non ci sarebbero più a sentire. La fine, è praticamente tutto. Il tutto è riallacciato dall'educazione tra pari, cioè noi non ci dobbiamo sentire al di sopra delle persone con cui stiamo ad interloquire, però dobbiamo cercare perlomeno neanche di dire voi dovete fare così, così e così, non possiamo dare delle linee guida, però possiamo cercare di far scaturire un ragionamento. Perché se noi accendiamo il fuoco del ragionamento in un gruppo, allora verranno fuori tutte le problematiche e tutte le contraddizioni che ci sono, per esempio, nell'uso della droga tra i giovani. Ora, questi punti dei sottogruppi sono stati riassunti in quattro sottogruppi, questo qua è quello, i 18 sottopunti sono stati riassunti in questo. Sì, perché sembravano un po' troppo dispersivi, allora abbiamo dato sei punti principali, fra cui, quindi il primo, coinvolgere genitori e figli in un percorso di formazione, appunto, attraverso dei progetti educativi mirati con esperti e testimonianze e giovani avvisini, anche perché è il nostro compito andare a parlare nelle scuole alla fine. Poi il dono in quanto tale presuppone un dare e un avere, quindi l'importanza di donare. Un dare perché comunque ci si sta bene quando doniamo il sangue, ma anche un avere, perché sappiamo che comunque dando un contributo alla nostra società riceviamo sicuramente qualcosa, ok, non oggi, non subito, ma in futuro. Poi dare una corretta informazione sui rischi reali mirando ad un'affettività responsabile, anche offrendo degli strumenti adatti a prevenirli, quindi far capire quali sono veramente le problematiche, in quali rischi si incorre magari non utilizzando gli strumenti adatti, e colpire proprio su questo, far toccare con mano quali sono i problemi. Una frase molto che ci ha, su cui siamo soffermati molto, prevenzione uguale amare se stessi e l'altro. Quindi iniziamo prima di tutto ad amare noi stessi, iniziamo a prevenire queste malattie, iniziamo a capire che ci sono problemi, e in seguito, capendo questo, aiuteremo gli altri, perché non potremo magari contaminare gli altri, non potremo creare questo problema ad altri. Poi dare uguale responsabilità uomo-donna, e si collega con il discorso fatto prima, quindi diciamo la prevenzione, amare se stessi e l'altro insieme, e fare leva appunto sulle emozioni. Tutto ciò deve colpire, deve lasciare una forte emozione. Tutti questi punti con i punti dell'altro gruppo, diciamo, hanno creato un discorso comune, quindi l'abbiamo chiamato sesso e psiche. Il target, abbiamo detto, sarà sempre quello, genitori e figli, quindi vanno coinvolte entrambe le sfere, informare correttamente sui rischi promuovendo un modello comportamentale senza però esprimere un giudizio, senza giudicare, senza entrare troppo, diciamo, andare troppo a giudicare. Poi la fase di prima prevenzione, amare se stessi, amare l'altro, e quindi iniziare a non pensare su se stessi, certo è importante, ma iniziare a considerare anche gli altri. Tutto ciò con delle testimonianze dirette, degli esperti e giovani vicini, mirando all'affettività responsabile, quindi ritorno al discorso dell'affettività, dell'educazione all'affettività, l'educazione tra pari, competizioni e esperienze. E quindi alla fine di tutto abbiamo sempre puntato su fare leva sulle emozioni, i rischi e le conseguenze di tutte le problematiche che abbiamo affrontato. Grazie a tutti. Salve a tutti, mi chiamo Irene Gennari, vengo dalla Puglia, in particolare Manduria, provincia di Taranto. Allora, comincio col dire che il mio gruppo di lavoro era quello dedicato all'alimentazione, in particolare quindi gli stili di vita dei giovani di oggi, quindi un tema molto fondamentale che è quello dell'alimentazione. Abbiamo affrontato con degli esperti il tema dell'alimentazione per quanto riguarda sicuramente partendo dalla piramide della dieta mediterranea. Quindi tutti sappiamo che la dieta mediterranea è comunque una dieta che contribuisce ad apportare dei nutrienti, degli apporti ecofisiologici e biologici necessari non solo per quanto riguarda il donatore, ma comunque alla persona in generale. In particolare per quanto riguarda l'alimentazione del donatore, possiamo dire che allora cominciamo dal pasto principale, quello sicuramente che dà l'input a svolgere bene tutto quello che riguarda poi la vita quotidiana. Quindi mattina abbiamo previsto una distinzione tra i carboidrati complessi, che abbiamo distinto in fette biscottate, cereali e pane, e i carboidrati semplici, quali frutta e marmellata e miele, come ecco, accompagnando ai carboidrati complessi, le proteine nel latte e i derivati, tutto ciò accompagnato da un caffè o un tè. Come spuntino di metà giornata si potrebbe consumare un frutto o uno yogurt, poi come pasto abbondante, ecco, fondamentale, un pranzo a base sempre di carboidrati complessi, quindi di pasta o riso, o comunque ecco, poi come piatto base, accompagnato da un condimento come un formaggio, il tonno o il ragù. Qui è necessaria una precisazione, perché solitamente non dovrebbero comunque essere associati dei carboidrati, proteine, grassi, in quanto in un piatto ad esempio di pasta al ragù abbiamo già la pasta, che è un carboidrato complesso, il ragù, che è sempre comunque un grasso, inoltre con l'aggiunta del formaggio risulterebbe un piatto abbastanza pesante. Quindi una volta consumato un primo di pasta al ragù, è necessario solamente un contorno come verdure, quindi a discrezione di ciascuno, cotte o crude. Come spuntino di metà pomeriggio abbiamo indicato ugualmente un frutto o uno yogurt, E infine, come cena, sempre riprendiamo i carboidrati complessi del pranzo. Quindi, se a pranzo si è consumato un piatto a base di pasta o di riso, a cena avremo un carboidrato complesso come il pane o le patate, accompagnato dal piatto ecco base della cena a base di proteine, quindi o carne o pesce, con un contorno di verdure cotte o crude. Olio d'oliva come grasso, quindi concesso, fondamentale nella dieta mediterranea. Inoltre, a tutto ciò che costituisce la base della dieta mediterranea, si consiglia comunque di associare un'attività fisica regolare. Allora, nel lavoro di gruppo abbiamo anche interagito tra di noi, abbiamo chiesto comunque agli esperti, in particolare per il donatore, come comportarsi. Allora, in particolare prima della donazione, quindi non solo nella mattina comunque che precede il momento della donazione, ma anche comunque è stata avanzata la domanda di come il donatore debba comportarsi anche per quanto riguarda il pasto della sera precedente della donazione. Allora, quindi è consigliabile che dovrebbe effettuarsi. Ragazzi, per favore fate silenzio, perché se no c'è un gran brusio, non si capisce, non mi sembra rispettoso nei confronti di chi parla. Allora, sarebbe consigliabile, secondo gli esperti, effettuare un normale e leggero pasto, quindi evitare gli eccessi. Non ci sono delle prescrizioni particolari per la cena, quindi che precede il giorno della donazione. Cosa si può mangiare dopo la donazione? Questo è anche fondamentale, quindi qui vediamo la sera prima della donazione, dopo la donazione. Fondamentale è, intanto bisogna dire che reintegrare bevendo acqua, comunque liquidi quali succhi di frutta, eccetera, ma comunque non bisogna nemmeno sovraccaricare lo stomaco con dei cibi pesanti. Bisogna quindi, anche ripetendo quello che già si è detto, nel pasto della sera prima della donazione, consumare un pasto leggero, quindi possibilmente magari a base di fibre o a base di carboidrati semplici. Un'altra domanda sottoposta agli esperti è stata quella ci si è chiesto se si può fare colazione prima della donazione. A questo riguardo bisogna dire che ci sono diverse, potremmo definirle così, teorie di pensiero, comunque scuole di pensiero, perché allora, in generale è concesso comunque consumare una leggera colazione, soprattutto evitando il latte e i suoi derivati. Quindi magari si potrebbe consumare un tè, un caffè, quindi accompagnato da due biscotti secchi, ecco, quindi non bisogna eccedere, soprattutto magari se la colazione è effettuata un'ora prima, circa prima della donazione. Un'altra domanda sottoposta agli esperti è il fatto della possibilità che esiste in alcune realtà di poter donare il pomeriggio. Quindi è possibile questo? Quindi dipende da un'organizzazione interna di ogni AVIS di competenza. Quindi se l'organizzazione lo permette, si può donare di pomeriggio, quindi in base alle disposizioni dell'AVIS. Quindi anche in questo caso, come nel caso della mattina che precede la donazione o della sera precedente, è consigliabile consumare un pasto leggero e comunque privo di grassi, quindi non eccedere anche in questo caso. Poi abbiamo un tema che riguarda gli accorgimenti alimentari per regolarizzare la pressione prima della donazione. Questo è un problema che sicuramente è molto diffuso, soprattutto tra le donne. Quindi per contrastare l'ipotensione si dovrebbe somministrare o un caffè o comunque consumare una leggera colazione, e quindi ripetiamo evitando il latte e i suoi derivati sempre. Quindi c'è stata poi sottoposta questa domanda: la donazione può portare una carenza di ferritina? In alcuni casi è possibile, ma può avvenire sicuramente se non si apporta la giusta reintegrazione di ferro, quindi solitamente con un'alimentazione adeguata nel giro di 90 giorni, soprattutto magari o reintegrando attraverso il consumo di carne, che l'aumento... L'aumento di carne sicuramente nella dieta è un alimento più adeguato, quindi di solito nei 90 giorni viene reintegrata la ferritina, questa carenza che è avvenuta con la donazione, e quindi viene reintegrato il livello stabile di ferritina. Per quanto riguarda il tempo poi invece che deve trascorrere dopo la donazione, prima di poter fumare o di assumere alcol, soprattutto il vino, si lascia comunque, ecco, non c'è comunque una prescrizione, una norma di legge che preveda o imponga un obbligo, quindi c'è una larga discrezionalità, si lascia intercorrere comunque un tempo di almeno un'ora circa prima di poter fumare. E per quello che riguarda invece l'alcol, bisogna evitare di assumere comunque nel periodo post donazione, ma comunque se ci troviamo a metà mattinata, è stata effettuata la donazione, quindi nel pasto principale del pranzo può sicuramente assumersi un bicchiere di vino. Quindi dopo la donazione si può consumare frutta fresca o yogurt, la cioccolata? Questa è una domanda che è stata avanzata da alcune avis comunali, in quanto ognuno di loro ha portato la propria esperienza, quindi ci sono alcuni che non somministrano quindi ai donatori direttamente un succo di frutta, ma addirittura una frutta fresca, ecco, quindi nel pieno delle sue sicuramente proteine. Quindi la frutta fresca sicuramente è concessa, lo yogurt e la cioccolata. In questo caso bisogna comunque fare una precisazione, perché per le donazioni che avvengono al di fuori di un centro trasfusionale, quindi in delle strutture esterne, è necessario comunque che la cioccolata o altri alimenti comunque siano confezionati, non siano manifatturieri o comunque di produzione casareccia, perché comunque devono, ecco, rispettare delle norme riguardo HACCP e queste simili. Quindi concludo dicendo che questa, possiamo dire, è la donazione, è l'alimentazione sicuramente consigliata, quindi lo stile di vita per il donatore, quindi per colui che si accinge a fare un dono, un gesto di solidarietà verso gli altri, ma è importante comunque seguire anche questo percorso, questi consigli anche per la salute del donatore stesso. Io volevo fare un personale ringraziamento al gruppo Sport, perché vi dico che come relatore mi è piaciuto lavorare con loro, sono della gente veramente in gamba. Gli obiettivi del nostro gruppo erano quelli di individuare gli elementi comuni tra i due stili di vita, quello del donatore e quello dello sportivo. E successivamente abbiamo individuato abbiamo programmato un evento che possa avvicinare i soggetti attraverso lo sport alla donazione. Per individuare gli elementi che accomunano i due stili di vita molto sani, abbiamo rappresentato in questo schema, che successivamente vedete lì, le varie parole chiavi, e quindi abbiamo cercato di dare una spiegazione alquanto sintetica per capire la loro valenza sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista dell'adorazione. Allora, occorre focalizzare innanzitutto sul collegamento che c'è tra l'attività sportiva e la donazione, e andiamo ad approfondire il primo punto di contatto, che è la scelta giusta. La donazione è una scelta giusta dal punto di vista sociale, perché il donatore con la donazione entra a far parte di un mondo nuovo che prima della donazione non era a conoscenza. Mentre per quanto riguarda praticare lo sport, vediamo che la scelta dell'azione sportiva, dell'attività sportiva, è utile e importante sia sul piano personale, perché permette al soggetto di rimanere costantemente in attività fisica e comunque di avere un benessere fisico. La seconda parola chiave è la determinazione e la costanza. L'atto del donare e la pratica sportiva comportano un sacrificio. Questo, anche se tra virgolette noi consideriamo sacrificio l'atto del donare, però potrebbe essere per qualcuno, per qualche soggetto, un piccolo sacrificio. Ma alla fine, al termine, dopo aver valutato la passione che ogni soggetto mette nel momento in cui va a fare sport o va a donare, si raggiunge quella gioia che annulla, azzera, proprio il sacrificio dell'atto stesso. Un altro elemento di contatto tra lo stile di vita dello sportivo e lo stile di vita del donatore è il corretto stile di vita. Per corretto stile di vita noi abbiamo inteso un'alimentazione sana, come la ragazza prima ha specificato benissimo, con una dieta perfetta, senza l'utilizzo di sostanze che possono essere dannose sia per il corpo che comportano quindi l'allontanamento del soggetto dalla società. E questo questo corretto stile di vita può garantire al soggetto un benessere psicofisico totale. Al termine porta quindi al soggetto sempre a una prevenzione di qualunque malattia, comunque stare sempre sotto controllo medico. Questo stile di vita può avvicinare il soggetto e farlo sentire parte di un grande gruppo, sia nel gruppo sportivo che nel gruppo dell'Avis, e gli permette di realizzarsi sia come membro di una società sia individualmente. Un altro punto di contatto è fare squadra. Il donatore, come lo sportivo, all'interno del gruppo realizza tutti i suoi obiettivi personali, ma molto di più realizza gli obiettivi della squadra, sia della squadra come senso sportivo, sia della squadra dal punto di vista dell'Avis. Questa di oggi è un grande obiettivo raggiunto da tutti quanti noi. Ultimo punto, che è il più importante, è la sensibilizzazione e la formazione. Noi siamo partiti proprio dalle scuole elementari, abbiamo pensato di partire dalle scuole elementari, dall'infanzia dei bambini, perché i bambini comunque devono essere educati sin dall'inizio, perché devono avvicinarsi sia al mondo sportivo per il loro benessere fisico, ma anche al mondo della donazione. Donazione in genere all'inizio e poi, quando arriveranno all'età giusta, alla donazione del sangue, per fargli capire proprio che cosa significa donare e cosa significa dare senza ricevere. E da questo abbiamo utilizzato lo sport come un mezzo che possa condurre il soggetto, il bambino e poi dopo il diciottenne nel grande mondo Avis. Questa è la nostra opera d'arte realizzata dal nostro vocalist. E adesso faccio la parola ad Elisa, che vi chiarirà qual è il nostro progetto, l'evento, la manifestazione che vorremmo organizzare. Allora, nel creare un evento innanzitutto siamo partiti da degli aspetti teorici che poi abbiamo visto che nella pratica si possono realizzare in determinati modi. Allora, siamo partiti innanzitutto dall'analisi del territorio in cui ognuno di noi abita. Questo ci serve soprattutto per capire che tipo di evento realizzare, perché non sempre il nostro territorio, la sua conformazione ci permette di realizzare qualsiasi evento noi vogliamo fare. E dunque l'analisi del territorio implica sia uno studio del territorio, sia le relazioni da intessere con associazioni ed enti locali. Questo punto si realizza nell'atto pratico con una scelta. Noi ci siamo focalizzati su due eventi tipo. Allora, uno è la biciclettata o la camminata lungo il paese, e un altro tipo di evento è la giornata dello sport. Allora, il secondo punto che abbiamo toccato è l'obiettivo da raggiungere. perché comunque ci si deve focalizzare sempre su un punto in particolare e all'inizio della progettualità dell'evento si parte comunque dall'obiettivo. Allora, qual è l'obiettivo? Nell'ambito sportivo e nell'ambito visino i tre punti fondamentali sono la sensibilizzazione delle persone coinvolte, lo stimolo e l'informazione e il coinvolgimento. Al terzo punto vi è l'atto pratico della progettazione che implica la definizione della tipologia di evento, come dicevo all'inizio, poi la scelta dei mezzi comunicativi da utilizzare e la scelta degli eventi correlabili o indicati. Allora, come strumenti di comunicazione diciamo che ormai tutto si comunica tramite internet, dunque social network di qualsiasi tipo, e YouTube per video. E naturalmente cosa fondamentale in un evento locale è anche il contatto con i media locali. Può essere radio, televisioni locali, insomma, chi più ne ha più ne metta. Come mezzo comunicativo per eccellenza naturalmente abbiamo pensato a degli slogan e ne abbiamo pensati di diversi, però ci piacevano di più questi due. La vitamina S, sangue, sport e salute, che poi naturalmente ognuno di noi... l'ingrediente fondamentale della nostra vita e in ambito sia a visino che sportivo. E poi un altro che si può attuare in qualsiasi momento, Avis e Sport, il tuo elisir di lunga vita. Anche questo è molto azzeccato. Va bene, concludendo nel realizzare un evento... Sangue, sport, salute e spettacolo. Vabbè, si conclude l'evento naturalmente con la solita verifica del progetto. E questo come si attua la verifica? Innanzitutto tramite questionari di valutazione da distribuire ai partecipanti, questionari di impatto per la popolazione nel caso della biciclettata e camminata che possono coinvolgere più la località, la popolazione, ma anche incontri informativi in cui ognuno di noi può dibattere e poi perché no anche in ambito visino statistiche rispetto alla donazione se per caso nel periodo successivo all'evento, ma chissà, magari sono cresciuti i donatori, dunque questo sarebbe un feedback positivo per chi realizza l'evento. Basta. Di Varese. Noi siamo il primo sottogruppo relativo alla donazione. Noi abbiamo fatto un lavoro diciamo un pochino tecnico, per cui non saremo molto lunghi perché riproporre tutte le cose che abbiamo scoperto ci porterebbe via davvero tanto tempo, perché abbiamo analizzato gli aspetti diciamo clinici o tecnici relativi alla donazione e il loro legame con lo stile di vita del donatore e diciamo un corretto stile di vita. Siamo partiti da quelle che possono essere le domande di un donatore tipo che si approccia alla donazione rispetto al suo stile di vita e alle conseguenze che questi comportamenti che tiene hanno sul fatto che può donare oppure no. E abbiamo scoperto, perché, per esempio, che i comportamenti occasionali di assunzione di droghe leggere come la cannabis oppure l'assunzione di alcol non sono di per sé una causa di sospensione definitiva, cioè dalla donazione, cioè non è che non si può più donare, però se il comportamento diventa cronico, allora sì, questo, se diventa uno stile di vita cronico e sbagliato, allora questo comporta l'esclusione dalla donazione. Ovviamente, come si fa a proteggere il ricevente in queste situazioni? Grazie al fatto che l'avanzare della tecnica medica, per esempio l'utilizzo dei test NAT, hanno portato a una riduzione del periodo finestra, che è il lasso di tempo che passa da quando avviene il primo contatto con un agente, diciamo, patogeno, a quando la malattia è rivelabile attraverso le tecniche mediche. Ovviamente questo a cosa è stato possibile grazie appunto al progresso delle tecniche mediche, alle ricerche e anche al fatto che sono aumentate le disponibilità di sacche, nel senso che dato che c'è più disponibilità di sacche è possibile essere molto più precisi e porre dei limiti molto più stretti su quelli che sono i parametri che una sacca deve rispettare per poter essere utilizzata nella donazione. Poi ci siamo occupati dei comportamenti che vengono assunti prima e dopo la donazione, in particolare relativi agli sport o agli hobby e ai lavori che possono essere a rischio, diciamo. Abbiamo scoperto che anche in questo caso non esistono delle professioni che impediscono l'accesso alla donazione, ma esistono più che altro dei casi in cui viene sconsigliato di fare la donazione. Come per esempio le professioni mediche, è uscito durante la discussione che fino a qualche tempo fa appunto c'era più che altro la convinzione che i medici o gli infermieri non potessero donare perché venivano a contatto con la possibilità di essere infettati o comunque materiale infetto, quindi erano una categoria a rischio. Questo non è vero, perché appunto grazie alla formazione adeguata di questo personale, al miglioramento delle tecniche eccetera, anche le professioni mediche possono donare, ovviamente se nel caso particolare in cui viene riscontrata una situazione a rischio, per esempio un medico si taglia mentre fa un'operazione, ovviamente sarà lui stesso a dire no, non dono perché questa situazione mi porta a un pericolo di contagio, per esempio. Poi, ovviamente scatta automaticamente il meccanismo di sospensione dalla donazione. Abbiamo poi analizzato l'aspetto più relativo all'alimentazione e in particolare ci chiedevamo tutto quanto è legato con il digiuno che viene consigliato, e appunto come ha detto benissimo la ragazza del gruppo dell'alimentazione, appunto è necessario alimentarsi in maniera leggera evitando i latticini, e il nostro gruppo, diciamo, ha fatto una domanda: ma perché vanno evitati i latticini? Perché questo ha delle conseguenze molto tecniche su nel sangue, direttamente quello che accade, le reazioni, insomma, che accadono al sangue quando poi viene lavorato successivamente. Quindi abbiamo scoperto che appunto è possibile, per esempio, donare al pomeriggio, naturalmente assumendo un pranzo leggero e che non carichi troppo l'apparato digerente. Bisogna integrare ovviamente il volume subito con dei liquidi. Un altro aspetto che abbiamo toccato è la relazione tra i farmaci e la donazione. Perciò abbiamo scoperto che non è il farmaco in sé che impedisce di donare, ma va fatta una valutazione di quella che è la causa per cui viene assunto un farmaco, e sono molto pochi i farmaci che impediscono automaticamente di donare. Abbiamo poi appunto scoperto che ci sono dei vincoli alle donazioni che sono meramente organizzativi, per esempio il fatto che la donazione viene fatta al mattino è dovuta, come hanno già detto anche gli altri gruppi, al fatto che le necessità di controllo, di effettuazione degli esami e di lavorazione portano alla necessità di fare le donazioni al mattino. Ovviamente tutti questi erano argomenti molto tecnici, per cui ringraziamo il dottor Saturni che è stato molto chiaro nelle sue risposte, ringraziamo i nostri coordinatori. Ciao a tutti. Sì, stringo. Sì, no, saremo velocissimi noi, abbiamo proprio sintetizzato al massimo, anche perché riprenderemo un po' di concetti che sono già stati affrontati. Io sono Marco della Avis Comunale di Arona in Piemonte, lei è Denise della Avis Comunale di Trani, Puglia. Allora, anche noi eravamo del gruppo Stili di Vita e Donazioni, eravamo un altro sottogruppo rispetto... Mentre loro hanno trattato argomenti proprio magari un po' più tecnici, noi ci siamo soffermati sui temi riguardanti la donazione un po' più in generale. Poi siamo anche entrati nello specifico col sottogruppo di Denise. Allora, lo scopo del gruppo era quello di... affrontare appunto dal punto di vista della donazione del sangue quelle che sono anche le responsabilità del donatore. Siamo partiti dal concetto che noi non possiamo dettare stili di vita esatti, perché non ci sono modelli di stili di vita, ma dei stili di vita standard, ma degli stili di vita sani, cioè stili di vita che si astengono dall'avere comportamenti da eccessi, ecco. Quindi ci siamo divisi in due sottogruppi. Noi abbiamo affrontato un po' più delle premesse, abbiamo parlato della donazione in generale, loro appunto degli aspetti un po' più tecnici, e visto che l'argomento è molto vasto, noi siamo partiti da due piccoli punti che avevamo e che vedevamo un po' tutti come punti in comune. Quindi questo qua è quello che vi ho già detto degli stili vita sani, e poi è una frase che ci ha detto il dottor Saturni, che ha affermato che dobbiamo far capire al donatore il motivo per cui vengono poste le domande del questionario. Cosa può fare Avis per favorire donazioni di sangue idonee? Allora, Avis gioca un ruolo importante nell'informare e nello stimolare l'autoesclusione. Dobbiamo far capire al donatore che la donazione implica una doppia responsabilità, cioè una responsabilità verso se stessi prima di tutto e anche verso il ricevente. Quindi la donazione necessita la massima sincerità della compilazione del questionario e nel colloquio con il medico. Noi non possiamo accettare idee o concetti che passino idee o concetti sbagliati, cioè una persona non può andare a donare il sangue per scoprire se ha malattie. Facciamo l'esempio di una persona che ha paura di aver contratto l'HIV, non può adottare come soluzione per scoprirlo se l'ha contratto andare a donare il sangue, ma andrà a farsi il test per l'HIV. Tornando al tema della sicurezza della donazione, abbiamo fatto questa riflessione. Se tutti compilassero il questionario in modo sincero e veritiero, non ci sarebbe alcun tipo di rischio, o quantomeno questi rischi sarebbero minimi, perché il medico, qualora lo ritenesse opportuno, potrebbe indagare più approfonditamente sui motivi per cui un candidato donatore ha messo delle crocette sul sì o piuttosto che sul no. Qualcuno però può essere spinto a mentire. Noi siamo arrivati a questa conclusione, che probabilmente c'è qualche persona che quando va a donare il sangue non mette le X nella casella giusta. Questo può avvenire per paura di essere giudicati, per avere una giornata di lavoro pagata o l'esame del sangue gratis, oppure per avere anche uno status sociale, per raggiungere uno status sociale di donatore. Cioè, abbiamo fatto l'esempio del candidato sindaco che va a donare per raccogliere simpatie e voti, oppure per mostrarsi sensibile agli aspetti sociali. E poi è emerso anche il problema delle donazioni remunerate, vabbè, non è il nostro caso, però in altre realtà nel mondo ci sono casi di questo tipo. Allora, cosa può fare l'Avis per evitare tutto questo, queste bugie, chiamiamole così? Allora, sensibilizzare l'autocoscienza e cercare di evitare il più possibile di diffondere un messaggio scorretto sulla donazione occasionale, magari per un bisogno momentaneo di parenti e amici. Far sì che il donatore faccia propri i principi di massima sicurezza tipici dell'associazione, e in sede di sensibilizzazione non dobbiamo mai giudicare i comportamenti delle persone dal punto di vista morale e spiegare che il personale medico lavora nel pieno rispetto del segreto professionale e della tutela della privacy, perché comunque ci sono anche molte persone che affrontano con timore il colloquio col medico. Allora, per quanto riguarda la parte più generica abbiamo finito, adesso passo la parola a Denise che entra più nello specifico, grazie. Allora, salve a tutti. Allora, nell'ambito dello stile di donazione, dello stile di vita per la donazione, ci siamo quindi chiesti se esiste realmente uno stile di vita e siamo giunti alla conclusione che alla base di uno stile di vita sano vi è la moderazione. Abbiamo quindi visto i vari ambiti, quello sportivo, quello alimentare, anche nell'ambito della sessualità, e quindi ci siamo resi conto come l'esagerazione, come abbiamo qui evidenziato, è il male, chiedendoci anche se esista un limite, riconoscendone l'invisibilità, ecco. Quindi abbiamo un po' analizzato, non sto a riprendere diciamo questi temi perché sono già stati trattati dal gruppo precedente, abbiamo visto come nei vari ambiti, quindi per quanto riguarda l'uso di alcol, di droghe e l'eccesso di fumo, di cibo, ci siano dei danni che consistono non solo nell'utilizzo proprio di queste sostanze, ma anche per le conseguenze che appunto l'uso ne apporta, in quanto abbiamo visto che l'uso di queste sostanze crea un atteggiamento più disinibito, ecco, in coloro che le utilizzano, e di conseguenza vi è un rischio non solo nel donatore, ma anche nel ricevente, in quanto appunto il donatore, non essendo più completamente consapevole delle sue azioni, mette a rischio la propria salute e quella del ricevente. E quindi ciò che i volontari Avis fanno è quello di suggerire un atteggiamento, quindi un cambiamento di abitudini e un atteggiamento più coscienzioso e allo stesso tempo più responsabile, questo cambiamento abbiamo quindi capito come non debba essere presentato come un divieto, quindi come un obbligo, ma bensì presentando tutti quelli che sono i benefici, i vantaggi, mettendoci anche dal punto di vista di un giovane che già diciamo subisce nel corso della sua vita diversi divieti, imposizioni da parte delle autorità genitoriali o anche nell'ambito delle istituzioni scolastiche. E quindi ciò che noi vogliamo sottolineare è che non puntiamo alla ricerca di supereroi, di persone dalle caratteristiche sovrumane che hanno, quindi che conducono una vita perfetta, ma semplicemente ricerchiamo persone responsabili che amino se stessi e che vogliono quindi condividere il loro benessere con qualcuno che invece non lo possiede in un certo senso. E quindi abbiamo un po' analizzato quelle che possono essere considerate delle azioni che abbiamo ritenuto scorrette in un certo senso, e quindi abbiamo rivisto quali sono i tempi di sospensione, diciamo di allontanamento in un certo senso dalla donazione, e quindi quelli che possono essere anche altri motivi, altre azioni che comportano dei rischi, quindi le trasfusioni, l'uso di antibiotici, interventi chirurgici, droghe, alcol, e di conseguenza ci siamo resi conto che alla base di tutto vi è un protocollo che fornisce in un certo senso che assicura cautela e prevenzione, e tutto ciò ha un fine, e ci ricolleghiamo appunto al concetto delle tante domande alle quali diciamo il donatore a volte si sente alle quali il donatore viene sottoposto, e talvolta si sente quasi sotto interrogatorio, ma queste domande hanno un fine importantissimo che è la sicurezza del donatore e soprattutto del ricevente. E quindi divenendo donatore, un volontario, ecco che si assume una grande responsabilità attività che non investe più l'ambito semplicemente della donazione, ma un po' tutti gli ambiti della sua vita, e vediamo come vada ad influire quindi nel suo stile di vita. Ecco che la donazione diventa parte integrante della vita e quindi allo stesso tempo non solo uno stimolo, ma anche lo scopo di un miglioramento individuale. E ci siamo però resi conto di come una persona che si avvicina anche per la prima volta alla donazione deve essere consapevole e cosciente delle proprie azioni e quindi deve essere al corrente di tutto quello che è il percorso. Nel prima abbiamo quindi visto lo stile di vita adeguato che il donatore deve avere e quindi la selezione, possiamo dire, il durante, quindi mettere a conoscenza il donatore di quelle che sono le finalità della donazione, e cioè il prelievo di sangue, come avviene, l'emocomponente, il sangue stesso, come viene utilizzato e quindi come si donano, quelle che sono le modalità, perché ciò che più spaventa a volte nella donazione è proprio l'ignoranza, nel vero significato della parola, cioè non sapere, l'ignorare ciò che avviene, l'oscurità. Cioè alcune persone si avvicinano alla donazione essendo completamente all'oscuro di ciò che avverrà e soprattutto il dopo, perché ciò che appunto è emerso è la paura. Tra le domande più frequenti, e se appunto rivolte ai donatori, ai volontari, è quella, e se poi mi sento male, cioè il timore di essere abbandonati in seguito alla donazione, ossia un donatore appunto si sente in un certo senso come uno strumento, sempre un'ipotesi, diciamo, potrebbe sentirsi uno strumento, dice io ho donato il sangue, ho fatto ciò che mi hanno chiesto e poi mi abbandonano. No, in realtà ciò che avviene è appunto ciò su cui abbiamo anche posto l'accento, è che il donatore viene seguito nel prima, durante e dopo. Dopo perché vi è un'attenzione della persona e quindi il continuo monitoraggio anche attraverso le varie analisi del sangue che vengono effettuati, e quindi abbiamo messo in risalto come la donazione sia anche uno strumento di prevenzione, prevenzione non solo per le patologie più semplici che possono apparire quasi insignificanti, ma anche prevenzione per alcune patologie più gravi e quindi che potrebbero in un certo senso salvare la vita. E ci siamo quindi resi conto di come la donazione debba essere in un certo senso parte integrante della vita di ciascuno, appunto a tutela della nostra persona. E volendo un po' ricercare uno slogan, una frase che in poche parole riassuma tutto quello che è stato il nostro percorso, abbiamo appunto pensato di dirvi: donate, ma donate con stile. Grazie. Beh, allora, grazie a tutti per la presentazione dei lavori. Allora, io dico le mie due parole, non ho parlato mai, dopodiché passo la parola così per concludere questa giornata, anzi queste due giornate. Allora, stili di vita, di certo non prendete me come esempio per comportamento stile di vita, perché è completamente diverso. Io ho in questi due giorni, come in tanti altri forum e convegno, sono arrivato a una conclusione, che noi abbiamo un virus, siamo tutti malati, Presidente, siamo tutti malati, è vero, perché effettivamente ieri sera, nonostante che era tardi, parlavamo di Avis, quindi questo ci fa capire che veramente siamo malati di Avis, quindi noi abbiamo un mal di Avis, ed è giusto, spero che non trovino nulla per guarire questa cosa, perché forse è la forza che ci porta avanti per stare nell'Avis e mandare avanti l'associazione, quindi questo ci fa piacere. Passo ai saluti finali, non posso che dire grazie a voi tutti di essere qui, perché alla fine se non ci siete voi, non ci siamo neanche noi. E grazie alla consulta, alla nuova consulta, che è anche il primo forum. Un saluto alla Sandronina, mi dicono. Ringrazio i giovani che veramente di Piacenza che si sono dati da fare, cioè ringrazio la presidente, giusto, la presidente, si dice bene, dell'Avis provinciale di Piacenza. tutti i relatori, ringrazio la vicepresidente vicario e il presidente dottor Vincenzo Colli. Grazie. Noi siamo venuti con un bel bagaglio, io sicuramente torno molto, molto, molto più ricca, quindi con un bagaglio più pesante, e di questo vi dico grazie. Per rubare un attimino la frase che ha detto Lillo, siamo malati di Avis, è vero, in questo caso per favore non facciamo prevenzione, contagiamo. Io ho condiviso due giornate con un gruppo abbastanza numeroso, in parte ci siamo visti anche con gli altri e creiamo veramente altre opportunità. Tutto questo bagaglio, tutto questo fare insieme e questo condividere, portiamoli nelle nostre realtà per fare in modo che veramente contagiamo, nel vero senso del termine, più persone possibili. Grazie, spero di rivedervi in tante altre occasioni. Perché dice i giovani devono crescere con noi, io cresco insieme a voi. Grazie. Vai, Lina! Allora, io cercherò di essere sintetico. Dopo mi dico che parlo troppo, però anch'io sono sempre di quella malattia lì e quindi quando si comincia a parlare di Avis poi è sempre un po' difficile anche frenare. I ringraziamenti li ha già fatti Lillo, quindi io mi associo completamente a quanto ha già detto lui, perché come accennavo ieri, all'inizio avevamo la preoccupazione di non avere abbastanza partecipanti, poi avevamo la preoccupazione di non riuscire a fare bene, perché chiaramente c'è sempre un po' di ansia. Oggi possiamo dire che è andato tutto bene, poi ci sono sicuramente nel corso dei due giorni passati insieme alcune cose che possono essere migliorate, ma questo fa parte di qualunque organizzazione, quindi secondo me il risultato che è stato anche sintetizzato nel lavoro di gruppo è stato veramente notevolissimo. Quando si partecipa a questi incontri ci sono da un lato gli aspetti legati allo stare insieme, al conoscersi, a scambiarci esperienze, che già solo questo è un grosso valore dello stare in un'associazione che ci consente di scambiarci idee, opinioni, a volte anche discordanti, ma che fanno crescere tutti. Dall'altro lato però abbiamo lavorato anche su un tema che è estremamente importante e che è un argomento che riguarda non solo l'associazione, non solo Avis, ma riguarda un po' in generale un'attenzione anche di tipo educativo, formativo, che altri enti, altre organizzazioni stanno portando avanti anche a livello internazionale. Per cui il fatto di aver individuato questo tema per dibattere insieme sicuramente è stata un'ulteriore, come dire, idea che ha coagulato tra di noi per discutere tutti insieme. È chiaro che non si può in due giorni di forum arrivare a delle conclusioni o a delle risultanze definitive su un argomento così importante, così grosso, così serio. Però mi sembra di aver colto sia dai gruppi dove ero presente, e anch'io mi associo perché è stato molto interessante, molto bello lavorare insieme, perché anch'io ho imparato tante cose, anche se mi ha fatto delle domande a volte molto tecniche, quindi c'era una risposta anche puntuale sull'argomento, ma porto a casa anch'io una grossa esperienza, un momento significativo. Ma dicevo che sono emerse delle cose importanti. E è opportuno, ho sentito che è stata data in carico a Silvia di recuperare il materiale, perché secondo me non è bello solo avere condiviso un percorso, ma anche poi avere la possibilità di tradurlo in qualche cosa di concreto. L'idea che stiamo portando avanti come Avis nazionale è quella di cercare di creare le opportunità per tutte le Avis del territorio di avere degli strumenti che possano essere di utilità concreta, passando attraverso una valutazione del Consiglio se sono situazioni di tipo più associative generali o magari di organismi, nello specifico Comitato Medico Nazionale, perché qui si parla anche di aspetti di salute, ma che poi possono essere veicolate ad esempio attraverso emoservizio o quant'altro per mettere a disposizione tutta l'associazione. Dopodiché uno a casa sua lo guarda, lo valuta, ritiene che quello strumento va bene, lo utilizza, ritiene che non sia confacente alle proprie esigenze, va bene, sa che c'è e magari lo usa in un altro momento. Anche questo confronto è sicuramente importante perché ci serve per dare una risposta alle esigenze. Quello che mi avete chiesto, quello che ho messo nei gruppi, dimostra che quando si è a casa propria, si ha contatto con la popolazione, si ha contatto con i donatori, ci sono tanti quesiti che emergono e avere un'indicazione può essere utile, il che non vuol dire mandarsi all'ammasso e non fare una valutazione critica, ma sicuramente ci aiuta per dare delle risposte più magari più oggettive e anche un po' più armonizzate. Quello che è importante per noi in queste iniziative è che da un lato permettono di far partecipare un numero notevole di giovani che vengono da tutta Italia, e probabilmente ce ne sarebbero anche altrettanti che per vari motivi non hanno potuto essere presenti in questi due giorni, per lavoro, per impegni di altra natura. Quello che per noi è importante però è che passi il concetto, io l'ho già detto anche a Reggio Calabria lo scorso anno, questa storia che dice i giovani sono il futuro, quando sanno il futuro sono vecchi, cioè anch'io sono stato giovane, voglio dire. Quindi, allora, i giovani sono adesso, sono l'associazione, siamo tutti l'associazione, indipendentemente dall'età. Poi che sia importante creare dei momenti. Sia importante creare dei momenti specifici in cui il linguaggio, gli strumenti che si mettono in atto, tutte queste cose possano essere diversificati. Basta pensare all'impatto, secondo me, migliore, qui abbiamo, cioè, che si può avere ad esempio nel testimoniare la donazione e Avis nel mondo della scuola. Se c'è una maggior vicinanza di età, anche il linguaggio, la comunicazione probabilmente risulta più efficace. Il comunicare uno stile di vita fatto tra pari di età è forse più efficace, che non vuol dire che uno che ha 80 anni non può essere avere lo stesso entusiasmo, avere ancora il virus attivo, quello di prima, cose di questo genere, assolutamente, però è naturale che se io mi confronto con una stessa fascia d'età probabilmente anche il mio vissuto, anche il mio modo di relazionare è diverso. Allora, nei momenti in cui ci sia un dibattito prevalentemente composto da giovani di età, sicuramente è importante, però non deve essere visto come una cosa a sé stante, deve essere assolutamente inserito nel contesto dell'associazione che evolve. Il cambiamento è una cosa che avviene a tutti i livelli, in tutte le organizzazioni, anche in Avis, che lo vogliamo o non lo vogliamo, se lo vogliamo e lo governiamo siamo ancora più incisivi, per cui essere tutti insieme è importante. Ma allora i giovani devono essere parte integrante, quindi nel percorso, come diceva anche Claudia, quando ci sarà l'assemblea, ci saranno le avvisiadi, ci saranno gli altri momenti, voi non dovete essere altri da Avis, siamo tutti insieme e lavoriamo per questo obiettivo. Avis può dare diverse opportunità però al mondo giovanile, sia di chi è già donatore sia anche di chi non è donatore. E al convegno, al seminario Cristina Rossi che è stato fatto a dicembre in collaborazione con Avis Lombardia, si è parlato proprio di quali opportunità l'associazione può mettere in campo per i giovani e quanto recupera dai giovani nel momento in cui questi si avvicinano anche dall'esterno e non tra i singoli donatori. Per cui abbiamo una grossa attività, ad esempio per il Servizio Civile Nazionale, voi sapete che ormai è diventato un'attività molto importante per l'Avis Nazionale, che coinvolge i giovani e li avvicina all'associazione. Abbiamo anche delle esperienze nuove come Servizio Volontario Europeo, che è stato sperimentato in alcune realtà d'Italia e stiamo cercando di portarlo avanti anche come Avis Nazionale. Qui abbiamo l'opportunità di, che se non l'avete conosciuta, di Patrizia, che è la seconda volontaria del Servizio Volontario Europeo che svolge il suo anno di volontariato presso l'Avis Comunale di Varese. Lo scorso anno c'era Giulia, qualcuno di voi l'ha conosciuta perché ha partecipato al Forum di Torino, ha partecipato anche all'Assemblea Nazionale. È un'esperienza in più che noi possiamo mettere a disposizione per i giovani, in questo caso di tutta Europa. Ed è uno scambio, sicuramente è un contagio positivo, una contaminazione sicuramente positiva che arricchisce tutti. L'ultima cosa, perché poi sennò vi annoio, non è, io voglio che vi ricordiate insomma positivamente il Presidente Nazionale, se no poi diciamo, non andate più la prossima volta, quando mi andate lì. Stiamo cercando però di avere anche un'interazione istituzionale un po' più forte. Lillo questa settimana, settimana scorsa insomma, ha incontrato prima il ministro Giorgia Meloni e poi un dirigente del suo ministero per portare avanti delle iniziative di ampio respiro sui temi collegati con la diffusione della cultura, della solidarietà, del dono, degli stili di vita a più ampio raggio. Questo raccordo che abbiamo avuto ci potrebbe consentire, abbiamo iniziato così, se era giovedì, mercoledì, insomma, qualche giorno fa, quindi proprio fresca fresca la cosa, per cui non abbiamo ancora la possibilità di anticipare i risultati che ci auguriamo positivi, ma le premesse sono che potremmo inserirci nella presentazione di progetti da parte di Avis che vengono poi sostenuti anche economicamente dal Ministero delle Politiche Giovanili, e quindi voi capite quanto impatto questo può avere all'interno della società e della capacità di interagire con i giovani di tutta Italia. Per cui stiamo cercando di dare questa impostazione anche istituzionalmente forte per dare un'ulteriore possibilità alla nostra associazione di essere veicolo di questi comportamenti, di questi stili, di questo atteggiamento positivo nei confronti della società. L'ultimissima cosa, l'anno prossimo è l'anno europeo del volontariato, penso che lo sappiate, può essere un tema di ragionamento a cui noi stiamo già pensando a livello di Consiglio nazionale, potrebbe essere uno degli argomenti, uno dei temi che possa, non voglio anticipare, non c'è Claudia, quindi non so, adesso non gli ho neanche detto, non voglio quindi anticipare, non voglio neanche che sia fuorviante per le decisioni che si prenderanno, però potrebbe magari essere un argomento, un tema, una possibilità di discussione anche nel forum giovani che verrà organizzato il prossimo anno. Sicuramente quello che noi possiamo dare all'interno della società, all'interno del mondo del terzo settore è significativo, non solo perché è 83 anni che siamo operativi sul territorio, ma anche proprio per il vissuto che noi portiamo. Io non posso che ringraziarvi per quello che avete fatto in questi giorni, per quello che ci avete dato. Siamo a disposizione per qualunque sollecitazione e suggerimento. Grazie, all'anno prossimo. Innanzitutto ringraziarvi della vostra presenza, perché per noi è stato un impegno organizzativo notevole e ci auguriamo che la vostra permanenza qua a Piacenza sia stata soddisfacente, e per organizzare anche e soprattutto dei contributi che sono emersi dai lavori di gruppo. Vi chiedo un'ultima cortesia per organizzare al meglio anche il vostro rientro. Chi necessita del servizio navetta, quindi che deve prendere il treno o l'aereo, di rivolgersi all'uscita, in fondo a sinistra c'è un tavolo, che così riusciamo a organizzare bene anche le partenze, i rientri. Grazie a tutti, arrivederci a presto.